Il terzo anello, ad alta voce, I viceré di Federico De Roberto. Un giorno, nonostante la tristezza dei tempi, Monsignor Vescovo si recò da Ferdinando per restituire la visita fattagli da Don Lodovico e per avere notizie dell'infermo e consolare l'afflitta famiglia. Tutti andarono incontro al prelato e gli baciarono la mano. La principessa, dalla commozione, aveva le lacrime agli occhi. «Che notizie del nostro caro ammalato?» «Non va bene, Monsignore», rispose Lodovico sospirando di tristezza. «Abbiamo persino dovuto dispacciare a nostro fratello Raimondo. Ma non ci ha da essere proprio rimedio. Abbiamo provato tutto. L'acqua di Lourdes, le medaglie di Loreto. Bene, bene, ma avete chiamato un dottore? Che farmaci gli avete dato?» «Oramai», parve voler dire Lodovico aprendo le braccia, «la vita del nostro povero fratello non è più nelle mani degli uomini». Egli non disse che Ferdinando era impazzito del tutto. La sorda diffidenza destatasi in lui contro i fratelli, il segreto sospetto che non gli aveva consentito di attribuire all'affezione le loro premure fastidiose, erano cresciute di giorno in giorno e invaso talmente il suo cervello che non capiva più nessun'altra idea. Egli, che per 39 anni aveva dato prova di tanto disinteresse da meritare dalla madre il nome di Babbeo, da lasciarsi rubare da tutti, si rivelava un tratto dei viceré con quel sospetto buffo e pazzo, adesso che non aveva più nulla da lasciare. Come la sua fibra si infiacchiva e il suo cervello si scombuiava, il sospetto cresceva, finché diventò furiosa certezza all'arrivo del fratello Raimondo. Il conte arrivò insieme con la moglie ed il figliuolo. Invecchiata di 30 anni la povera donna Isabella, irriconoscibile come un giorno era stata irriconoscibile la Palmi. Ora il Babbeo, che non ragionava più, alla vista del fratello ebbe un assalto di smania furiosa. Con gli occhi stravolti, coi capelli arruffati sul viso scarno e pauroso, si mise a gridare: «Assassini! Assassini, aiuto! I prussiani vogliono avvelenarmi!» Lucrezia gli si metteva accanto, lo prendeva per mano e gli domandava: «Ma di chi hai paura? Non ci riconosci? Credi che ti voglia avvelenare io? O Giacomo? O Raimondo?» Una sera, mentre Don Blasco stava per uscire di casa insieme col professore, il cocchiere del principe venne a dirgli col fiato ai denti: «Eccellenza, l'aspettano dal cavaliere, sono tutti lì. Portano il viatico al signorino Ferdinando». Il monaco aveva una gran fretta di andare al gabinetto per sapere che c'era di nuovo. Le ultime notizie dicevano che le truppe italiane erano dinanzi a Roma, e se la curiosità generale era vivamente eccitata, Don Blasco smaniava addirittura. Non di meno, all'annuncio di morte, stava per rispondere che sarebbe subito andato, quando arrivò a precipizio un altro messo da parte del duca: «Sua eccellenza l'aspetta subito a casa, è affare urgentissimo!» Piove lì, tra la gente seduta sul marciapiedi, al fresco, come una bomba. «È nostra! È nostra! È nostra! Roma è nostra!» Tutti volevano leggere la notizia, ma Don Blasco non dava a nessuno il dispaccio che nella ressa correva il pericolo d'essere stracciato in mille pezzi. «Leggete! Leggete! Vogliamo sentirlo!» Salito allora sopra una seggiola, il monaco lesse col suo vocione: «Firenze, ore 5 pomeridiane. Onorevole Doragua, Catania. Oggi, alle ore 10 antimeridiane, dopo 5 ore di cannoneggiamento, truppe nazionali aprono breccia cinta di Porta Pia. Bandiera bianca alzata su Castel Sant'Angelo, segno fine ostilità. Nostre perdite 20 morti, circa 100 feriti». Quando la banda dell'ospizio, riunita in fretta e furia, cominciò a suonare, il clamore divenne assordante. E mentre i suonatori e il capo musica domandavano: «Da che parte? Dove si va?» «Dal deputato», risposero 10, 100 voci. «Dal duca!» Tutte le finestre illuminate in casa dell'onorevole, una bandiera che pareva una vela di bastimento sventolante al balcone di mezzo, il deputato che in persona rispondeva salutando col fazzoletto: «Viva Roma capitale! Viva Oracqua! Viva il deputato! Evviva! Evviva! Alla prefettura!» E la marcia ricominciò. Thank you. Palermo, lì 12 febbraio 1872. Signore onorandissimo, l'origini non men che l'istoria della patria nobiltà sapere, tornare in niente non deve a ciascuni, specie in tattempi che la vengono stimando da sezzo, in quella vece che tutto sì dagli esteri ammirando si viene. Da ricapo narrarla, dopo che il Mugno, Silvilla Bianca ed altri famosi a sé recarono immortalità, sbrancandone quel denso velo, chiarirsi potrebbe un fuor opera, se quei valentuomini per legge di natura arrestati non fossero ai tempi che vissero. Scheda di sottoscrizione all'opera del cavalier Don Eugenio Uzeda, dei principi di Francalanza e Mirabella, duchi d'Oragua, conti della Lumera, eccetera, eccetera, già gentiluomo di camera con esercizio di sua maestà il re Ferdinando II, medagliato dell'ordine ottomano del Nisham Iftkhar da sua altezza il Bey di Tunisi, membro di varie accademie, eccetera, eccetera, intitolata l'Araldo Sicolo. Questa circolare, diffusa a centinaia e centinaia di copie, provò ai concittadini del cavaliere Don Eugenio che egli era ancora tra i vivi. La posta non aveva finito di distribuire il manifesto dell'Araldo Sicolo che arrivò l'autore in persona. Mancava da tant'anni ed era naturalmente invecchiato, toccando ormai la sessantina, ma stranamente imbruttito anche e quasi irriconoscibile. Sul viso dimagrito ed emaciato, il naso sembrava essersi allungato come una tromba, una proboscide, un'appendice flessibile atta a frugare in mezzo al letame. La sua prima visita fu per il capo della famiglia, ma giunto dinanzi al portone del palazzo, vide con stupore che era chiuso, col solo sportello aperto. Datosi a conoscere come zio del padrone al portinaio che lo squadrava da capo a piedi, sentì a rispondere che non c'era nessuno, né il principe, né la principessa, né Consalvo, partiti tutti. Il signorino in viaggio da quasi un anno, i padroni per togliere dal collegio la signorina e farle vedere un po' di mondo. Il domani egli cominciò il giro dei parenti che erano in città. Andò prima di tutti dal fratello Don Blasco. Il monaco pareva sul punto di scoppiare. «Perché sei tornato?» disse al fratello appena lo vide entrare da modo di saluto. Aveva infatti ricevuto la circolare dell'Araldo Sicolo e comprendendo da questo che doveva essere con l'acqua alla gola, metteva le mani avanti per evitare richieste di sussidi. «Sono venuto per poco», rispose Don Eugenio. Prima di tutto per rivederci e poi per fare associati all'opera di cui ti ho mandato il manifesto. Io ti vorrei proporre di stampare insieme il libro. Il monaco lo guardò fisso nel bianco degli occhi. Sei pazzo? Perché pazzo? Non credi che ci sia da guadagnare? Ti faccio i conti in 448, ti faccio vedere le firme raccolte. Non voglio veder niente, credo benissimo e ti ringrazio tanto. Tieni per te 10.000 lire. Sperando di riuscir meglio con la sorella, il cavaliere andò a rinnovare il tentativo con donna Ferdinanda. Asciutta e verde come un aglio, la zitellona pareva sfidare il tempo. Gli anni le passavano addosso senza mutarla. Ne aveva ormai 62 e non ne dimostrava più di 50. Solo le mani le si coprivano di rughe, si spolpavano e si irruvidivano a contar denari, come a lavorare il ferro o a zappar la terra. Anche lei aveva ricevuto la circolare dell'Araldo Sicolo. Thank you. Le chiacchiere tiravano in lungo perché donna Ferdinanda gli dava corda ed il cavaliere non ne aveva neppur bisogno, felice di mentovare le sue grandi relazioni palermitane. «E non sai la più bella notizia? La figlia della Palmi è sposa!» «Sì? E con chi?» «Col mio amico Memmo Duffredi. Duffredi di Casaura, il nipote di Cicciolo Iacono. La prima nobiltà di Palermo e parecchi milioncini di proprietà. Ma davvero? Una gran fortuna per la ragazza!» Quell'intrigante del barone ha combinato ogni cosa ed ha preso Memmo in trappola. Naturalmente, come parente, non potevo dir questo, altrimenti sarei andato da Ciccio per avvertirlo. Tuo figlio può trovare un partito migliore. E poi quella ragazza ha un certo fare. Basta, io non ho parlato. Tanto più che giusto quando si combinava la cosa ero a Tunisi. Ah, sei stato a Tunisi? E per far cosa? Che cosa? Niente, per diporto. Egli tossicchiava un poco, tuttavia, imbarazzato, quasi confuso. E poiché donna Ferdinanda continuava a fargli domande, per sapere se Tunisi era una bella città, quanto tempo c'era stato e via discorrendo, il cavaliere, quasi risolvendosi, disse finalmente: «Ci fui anche per raccogliere sottoscrizioni alla mia opera, sai?» «Opera?» fece la zitellona con atto di meraviglia. «Quale opera? Come? Non hai ricevuto il manifesto?» «Io non ho ricevuto niente.» «L'Araldo Sicolo, la storia della nobiltà.» «Tu? Tu stampi un'opera?» E la risata non finiva. Quando il vecchio spiegò che libro aveva scritto, essa divenne più fine, più ironica, più tagliente. «Una storia della nobiltà dopo il Muñoz e il Villabianca, per ficcarci dentro gli arricchiti che si facevano dare del cavaliere o del marchese. La nobiltà autentica era tutta scritta nei libri antichi. Almeno mi presti qualche centinaio di lire?» «No, perché non me le restituiresti?» E ogni altra insistenza fu inutile. Andato a ripetere il tentativo dalla nipote Chiara, don Eugenio non poté neppure vederla. La cameriera gli disse che il marchese era fuori e la marchesa chiusa in camera col dolor di capo. Allora egli andò a battere alla porta dei Giulente. Arrivò da loro sull'annottare, dopo una giornata di corse. Benedetto non c'era e Lucrezia non si riconosceva più, tanto s'era trasformata ed imbruttita. E il primo discorso che tenne allo zio, rivedendolo dopo tanti anni, fu giusto contro Benedetto. Il cavaliere non l'udiva, rimuginando il discorso da tenerle. Appena la nipote fece una pausa, egli espose la speculazione ideata che riuniva l'immancabile riuscita finanziaria alla nobiltà dello scopo. Ma Lucrezia: «Storia della nobiltà», replicò. «Dove più la nobiltà? Che storia vuole scrivere, Vostra Eccellenza? Adesso sono in favore i lustrascarpe, non i nobili. Per essere considerati bisogna venire dal niente. Scriva piuttosto la storia dei villani e dei maestri notari, quella sì che c'è da guadagnare.» Imperturbabile, don Eugenio ricominciò il giorno seguente. Da Eradaliu Zeda trovò il duca Michele e il barone Giovannino. La duchessa era fuori di casa. Michele, a 25 anni, perdeva i capelli e pareva vecchio del doppio. Giovannino era invece più grazioso di prima, fine, elegante. Udita la richiesta del parente, entrambi risposero che solo la madre gli avrebbe potuto dare risposta. Il giorno dopo, il cavaliere tornò a parlare con la duchessa. E questa cadde dalle nuvole. «Io stampar libri? E come mai vi viene in testa una cosa simile? So molto di queste cose io.» Per levarselo di torno, la gente prometteva ambiguamente, ma egli prendeva nota dei nomi in un suo portafoglio unto e squarciato, unicamente imbottito di circolari e di schede, delle quali faceva nuove distribuzioni, ficcandole in tasca a chi rifiutava col gesto e raccomandando di diffonderle, di riempirle al più presto. Thank you. Il ritorno del principe con lo zio Duca, la moglie e la figlia al principio dell'inverno diede nuovo alimento alla pubblica curiosità. Aspettavano tutti di vedere in viso questa famosa principessina della cui bellezza si parlava tanto. La bellezza bianca e bionda, fine, delicata, quasi vaporosa della fanciulla non aveva riscontri nella famiglia dei viceré. La vecchia razza spagnola, mescolatasi nel corso dei secoli con gli elementi isolani, mezzo greci, mezzo saracini, era venuta a poco perdendo di purezza e di nobiltà corporea. Chi avrebbe potuto distinguere, per esempio, Don Blasco da un fratacchione uscito da lavoratori della gleba o Donna Ferdinanda da una vecchia tessitrice? Teresa possedeva un'istintiva eleganza, una nobile grazia di portamento, ancora non del tutto liberata dall'impaccio della collegiale, fino a qualche mese addietro, costretta nella goffa uniforme. Nei primi giorni, quando ella cominciò ad uscire in carrozza, accanto alla matrigna, la gente si fermava sul marciapiedi, l'aspettava al varco, per figgerle gli occhi addosso, a bocca aperta. In casa, naturalmente, erano venute a trovarla prima di tutte le zie, e Lucrezia si era quasi attaccata alle gonne della nipote, l'accompagnava per ogni dove, le dava consigli, non parendole vero di poter esercitare su qualcuno la sua smania d'autorità. Invece la principessa lasciava che la figliastra facesse a modo suo e scegliesse quel che le piaceva, anzi si rimetteva a lei per le cose sue proprie. «Che gusto, quello della mia figliuola! Che figliuola modello!» La lodava specialmente per la dolcezza del carattere e la bontà del cuore. La baciava e l'abbracciava dinanzi a tutti, anche in conversazione. Vegliava su lei come una vera mamma. Era gelosa e scrupolosissima. Non permetteva che oltre i libri di religione la figliastra leggesse cose capaci di guastarle la testa, né che dinanzi alla ragazza tenessero certi discorsi, per paura che le stesse parole le contaminassero il pensiero. Stava perciò sulle spine quando la cognata Lucrezia narrava certe storie di concubinaggi, di separazioni coniugali, di nascite illegittime. Anche un altro parlava spesso di cose scabrose e la principessa doveva tenerlo in riga, il cavaliere Don Eugenio. Appena saputo l'arrivo del fratello e del nipote, era corso da loro per ricominciare il discorso dell'araldo Cicolo. Il duca, senza le grida di Don Blasco o le commedie di Donna Ferdinanda, gli aveva risposto chiaro. «Coi libri, caro mio, nessuno ha mai fatto quattrini. Tu ne farai meno degli altri perché non hai saputo far nulla mai. Almeno, Don Eugenio insisteva, farai comprare il libro alle biblioteche dello Stato. A te non costa nulla, sei tanto influente. Basterà che tu dica una parola». Il deputato ascoltava la lode a occhi socchiusi, beatamente. Infatti, i bei giorni erano tornati per lui. Dopo l'atteggiamento preso nella questione romana, aveva rimesso il tallo. L'elezione del novembre 70 era stato un altro trionfo. Sì, gli sarebbe bastato dire una parola per aiutare il fratello. Tuttavia, alle insistenze di costui, rispondeva che avrebbe visto, che avrebbe pensato, preso da uno scrupolo. «Cosa si potrà dire? Che mi giovo del mio credito per procurar favori alla mia famiglia?» Don Eugenio allora si era rivolto al principe. Questi aveva negato sulle prime come meglio aveva potuto, ma in fin dei conti gli riusciva difficile insistere in un rifiuto crudo, poiché egli non aveva tanta confidenza con lo zio da mandarlo a spasso. Perciò si era lasciata strappare la promessa ad un'anticipazione d'un par di migliaia di lire, aspettando a sborsarle che la sottoscrizione fosse a buon punto. Frattanto Don Eugenio, allettato dalla promessa, veniva a palazzo quasi ogni sera, con grande mortificazione della principessa che non poteva soffrire la vista della famelica faccia e dei miserabili indumenti del cavaliere. Curioso, il cavaliere voleva sapere che pensavano per il matrimonio di Teresa, che cosa faceva con Salvo, quando sarebbe tornato. Da Parigi il giovanotto tornò finalmente in Italia e, restato un poco a Torino e da Milano, passò a Roma, che era l'ultima tappa del suo viaggio. Lì si fermò un pezzo, ma dopo aver scritto un paio di lettere alla zia non si fece più vivo. Donna Ferdinanda gli aveva anche raccomandato di baciare il piede al Papa e Baldassarre, infatti, da principio annunziava che Monsignori Don Lotovico doveva condurre in Vaticano il nipote, ma poi non si disse se la visita era stata fatta. Anzi, un giorno, inaspettatamente, annunziò per telegrafo l'imminente ritorno.